pensavo di parlare troppo velocemente. Difatti, quando lavoravo, soprattutto alla radio, mi dicevano: guarda che sei bravo, tutte queste cose qua, dici cose interessanti, ma sei troppo veloce. Non si capisce quello che tu dici. Ecco, Giorgio delle Donne oggi mi ha battuto 1-0. Sono contento, però ho capito tutto. E questo mi fa anche capire una cosa, che a suo tempo protestavano perché parlavo veloce, ma sicuramente capivano. Ecco, era tanto per dire qualcosa. Dunque, spero che tutti possano vedere abbastanza bene, perché vedo che le persone dell'ultima fila sono un po' incassate con due S. Ma le vignette sono anche, sono forse spostabili un po' verso l'alto, adesso vedo un po' cosa riuscirò a fare. Dunque, l'ultima mia fatica si chiama Sorridendo con Frangi. Quando lo scrivo al computer, sorridendo, tutte le volte mi corregge quella Y che ha un significato in I e devo ricorreggerla in Y. La battuta che vedete sulla copertina, basta che l'SVP lo chiede, avremo il mare anche noi nel Sud Tirolo, non è del tutto mia, perché l'ha detta Durnwalder tempo fa. Dunque, vediamo di andare avanti. Adesso questo è il primo libro, quello che vi propongo pertanto questa sera, che è nelle librerie a 10 euro, scusate il mercantilismo, se lo volete ve lo do a 5 euro, a metà prezzo, qui, adesso di meno non posso, con in più due o tre vignette gratis, se le volete, sono qua autografe. Beh, adesso che mi sono fatto pubblicità me ne posso anche andare, perché tanto. Dunque, chi è questo personaggio? Questo personaggio è Francesco Frangipane. Perché ve lo propongo? Perché è il mio bisnonno, e questo è un autoritratto. Questo per dirvi, era un pittore, era un bravo pittore, un autoritratto ad olio. Questo per dirvi che la mia capacità di, mi devo parlare un po' addosso naturalmente a questo punto, la mia capacità di disegnare mi viene un po' dal DNA. Questa è mia madre, questa è una scultura di mio padre, che era direttore di ragioneria in prefettura e poi il commissariato del governo, però era un bravo dilettante anche lui. Ancora mio padre che scolpisce in plastilina, che modella in plastilina, questo è ancora mio padre che modella in plastilina. Questo è mio fratello Domenico, che disegna vignette, fa l'ingegnere, lavora alla Habitat con Tosolini. Chiudo la parentesi. Ed è molto bravo, come vedete, anche lui a fare pupazzi. È un male di famiglia. Tant'è vero che è sempre mio fratello che ha delle tendenze un po' strane, un po' scollacciate, come vedete. E questo è ancora mio fratello. Questa invece è sua figlia, mia nipote Barbara. Ancora mia nipote Barbara che disegna, copiando questa volta. Questo è un suo disegno originale. Questo è un disegno invece di mia figlia Silvia, che è architetto, lavora in Formula 1 alla Williams, dove non c'è da disegnare, però a tempo perso anche lei fa i suoi pupazzi. Come vedete, insomma, i frangipane sono dei. E questa è Veronica, la mia nipotina, che ha 5 anni e si sta avviando sulla buona strada aperta dal bisnonno Francesco che avete conosciuto in precedenza e che io non ho avuto il piacere di conoscere, per la verità. Mi dicono che fosse un bravo restauratore e che molti quadri di Mattia Preti, non so se l'avete presente, sono stati restaurati da lui. E questo sono io, non il volto no, naturalmente, il volto l'avete riconosciuto, ma ve lo voglio proporre perché è un disegno che io ho fatto quando avevo 5 anni, che già sapevo un po' scrivere a modo mio, il Duse Musolini, naturalmente, e mi pare interessante questo disegno perché è una riproduzione che io ho fatto da un busto di Mussolini che si trovava in casa mia, che dopo il 25 luglio del 1900 43 è scomparso, non so perché. Comunque, come vedete, ci sapevo già abbastanza fare. Il mio spirito mercantile lo vedete dall'offerta: 50, 20, 44 lire per comprare. Non avevo ancora le idee chiare, ma avevo le idee sulla quantità del denaro da chiedere, ma avevo la. le idee chiare sul fatto che il denaro andava chiesto. Questo è qualcosa di serio, perché so fare anche delle cose serie. Ho disegnato, ho illustrato dei libri sui castelli dell'Alto Adige, sui castelli del circondario di Bressanone, su Bressanone, eccetera. E qua veniamo adesso a qualcosa di più lepido. Qua, questa è una vignetta che ho fatto per Playboy, è molto male riprodotta, Playboy italiano, perché all'epoca, parlo di 30-40 anni fa, non esistevano gli scanner e quindi disegnavo a tempera, pensate un pochettino, e poi fotografavo con la macchina fotografica. Questo per dirvi comunque che la mia attività di vignettista si estende molto indietro nel tempo. Facevo il giornalista, facevo l'inviato, negli ultimi anni non ce la faceva fare l'una cosa all'altra, ma riuscivo a trovare anche il tempo per le mie vignette. Qua vedete l'illustrazione di una pagina su un libro di ricette di mele, e qua invece, e se ci accontentassimo del pareggio, dicono i due, dice l'uno all'altro, e dirò anche le didascalie a beneficio delle persone che sono in ultima fila e che non le leggono, no? Questo perché vi propongo adesso tutta una serie di vignette. Qui non c'è didascalia, ma è facilmente intuibile l'umorismo che ne scaturisce da questa vignetta, anziché l'ha occasionata. Sono vignette che ho costruito, che ho disegnato per riviste sportive. Vivendo nell'ambito sportivo, ho disegnato per sci, sciare, neve sport, ghiaccio sport, atletica, canoa. Di tutto, nuoto e tuffi, eccetera. Anzi, sto facendo adesso un libro. Il prossimo che vedrete, sto facendo un libro proprio sulle mie vignette sportive. Questa non ha didascalia, ma è facilmente intuibile nel suo significato. Fifone, ecco qua, siamo in materia di tuffi. Come vedete, ho iniziato la mia attività sportiva di cronista sportivo. Come commentatore, diceva prima delle donne, di quando mi sentiva da lontano con Klaus Di Biagio, commentatore di tuffi per l'appunto, visto che c'era Klaus Di Biagio qui a Bolzano, ho cominciato con i tuffi e poi mi sono spostato al seguito di Gustavo Teni in giro per il mondo, e poi è capitato di tutto perché mi hanno finito con l'assegnare le più incredibili specialità. Dunque, dice un commentatore all'altro, deve solo migliorare di un poco l'entrata in acqua. Come vedete, questo sta entrando di sedere, proprio non è un tuffo alla Di Biagi. Questa è una partenza, una veloce partenza fatta e disegnata per la rivista Nuoto. Qua invece per la rivista Canoa, sei certo di non aver sbagliato percorso? Gli sportivi sono sempre intelligenti, ma più che sempre direi quasi sempre. Le volte sanno essere anche un po' stupidi. Ecco qua, c'è il Bob che scende veloce, la polizia che lo blocca perché è troppo veloce. Qui siamo un po' sullo scollacciato, giovanotto, giù con le scarpe dal mio divano. Il marito entra in casa e si arrabbia perché la moglie si sta divertendo con un signore che non si toglie le scarpe. Caro, dobbiamo pensare a ritinteggiare il soffitto, dice, è un classico. Sento, l'avete capita questa, no? Ecco, tu mi trovi più sexy con le calze e io ti trovo più sexy con i calzetti. Questa è una cosa curiosa, non avete mai pensato quanto noi maschietti diamo importanza alla lingerie femminile e come alle donne non gli importa niente dei nostri calzetti? Io ho tentato di fare l'amore con calzetti rossi, gialli, blu, ma proprio la cosa non è piaciuta. Neanche le giarrettiere, adesso non si usano neanche più. Non è la cabina, signora, è la vetrina. Ecco, queste sono vignette che apparivano su Domenica Quiz. Ho disegnato anche a suo tempo per Travaso, Calandrino, e com'era quell'altro? Bertoldo. Ci tieni proprio a questo incontro di calcio? Ah, la didascalia in basso, quindi la leggo. Mi leggi il peso? Io non ci riesco. Con queste piccolissime bilance, oggi veramente può essere un problema leggere il peso per certe signore oversize. La presa serve per l'aspirapolvere. Questo è il conflitto tra la donna casalinga che lavora e l'uomo beatamente spaparacchiato davanti al televisore. Quando accendo la luce si apre la doccia. Probabilmente era un alloggio IPES. Comunque, come vedete, la signora ha chiamato chi di dovere e questo invece qui siamo un po' sul patetico, sul tragico. E ora che tu lo sappia, figliolo, ti abbiamo adottato. Ah, questo è il mio primo volume di vignette. Mi diceva prima la dottoressa Trevisan, per l'appunto, che mi hanno allestito fuori un tavolo e io ho scoperto che è veramente disegnato e scritto vari libri. Non li avevo neanche in mente, ho scoperto delle cose nuove. È stato il mio primo libro che ho illustrato, una mia raccolta di vignette nel 1996, credo, appena andato in pensione per la Praxis. Ha avuto un successo clamorosissimo. Sono state vendute pochissime copie e questo invece è il libro che è uscito nel 2005 con le vignette dal 2002-2005 apparse sull'Alto Adige, Sorridendo con Frangi, diciamo il primo volume della serie Sorridendo con Frangi. Come vedete, e lo dico a beneficio delle persone che non possono vedere del tutto la vignetta, in basso si vedono un gallo e una gallina, il gallo arrabbiato perché le sue penne gli sono state strappate dal bersagliere, mentre lo Schützen ha strappato le penne dal sedere della gallina. Regionali, ballottaggi, crisi di governo, Milan. Questa è una vignetta del 20 aprile del 2005. Il Cavaliere si sta ridimensionando. Berlusconi, l'Italia è un paese ricco e gioioso. L'aveva detto lui nell'aprile del 2005. E vedi qua chi va ad Arcore per godere di questi momenti di ricchezza e di gioia. Mi si dice, ma tu ce l'hai con Berlusconi? No, io ce l'ho con, in genere, posso avercela anche con Berlusconi, anzi gli sono grato per la verità, gli ho dedicato, alla Biancofori mi ha chiesto un volume per lui, gliel'ho dedicato con riconoscenza perché gli ho scritto per l'appunto che grazie a lui tante idee mi sono venute nel corso degli anni. Berlusconi in effetti è un personaggio che si presta da spunti alle vignette, ma il vero vignettista, il bravo vignettista, non se la prende col personaggio, ma piuttosto fa satira sul potere. È il potere in quanto tale che mi induce al sorriso e a provocare il sorriso. Tant'è vero che adesso ce l'ho più che altro con Prodi. L'Europa vista dai francesi, mi è scappata l'immagine e voglio riproporvela. Adesso mi è scappato il dito, ecco qua. I francesi e l'Europa la vedono così. Questo penso che siate d'accordo. Tutti dai rossi, i soli ad avere la televisione a sinistra nel 55. Vi ricordate quando c'era il giovedì Mike Buongiorno e c'era una famiglia nel condominio che aveva il televisore, allora tutti là. Oggi tutti dai rossi, i soli con l'aria condizionata. Tutti al mare, dice Ruini. In occasione del referendum, come Craxi, per l'appunto la didascalia dice referendum, Ruini come Craxi. Ecco qua i nostri radicali, Bonino, Pannella, Capezzone. E qua a dicembre il congresso della nuova DC, siamo nel 2005, è un annuncio del giugno del 2005, balena bianca in emersione, tornano i democristiani. Gli iraniani che hanno il petrolio non rinunciano al nucleare, noi che non abbiamo il petrolio ma siamo scemi, vi abbiamo invece rinunciato e difatti lo stiamo ancora scontando. Mettiti queste scarpe col tacco, Italia a crescita zero. Alleanza Nazionale, presto chiudete le finestre. Fini, nel mio partito non voglio correnti. mi fa piacere sentire qualcuno che ridacchia. Ho presentato le mie vignette tempo fa nel mio circolo, al circolo cittadino, un silenzio glaciale che non vi dico. Si vede che mancano di intelligenza, sono troppo vecchi. Tutto chiaro, il ministro Siniscalco dice che si deve implementare in modo rigoroso la finanziaria e fare un aggiustamento strutturale al netto del ciclo e delle una tantum spalmato su 2 anni. Ora, queste non sono cose che mi sono inventate io, queste le aveva detto Siniscalco, tanto per farsi capire. Porno tax. E questa è un po' di filosofia, ci avete mai fatto caso? È il più bello al mare è ascoltare i discorsi sotto gli ombrelloni vicini, fare finta di dormire, ascoltare. Tramonto nella striscia di Gaza, Israele se ne va. Bravo, meriti 10 lode, 1 più 1 uguale 5, questi sono i conti di Berlusconi. Agli scolari il peso dei libri, ai genitori il peso del costo dei libri. Ai tempi miei, sul finire degli anni 30, inizio anni 40, io mi ricordo ancora, c'era un abecedario e un silabario che valeva di anno in anno più o meno per tutti, mi pare di ricordare, no? Ah, il sussidiario, ecco, dalle donne me lo ricordo. Papà, cos'è l'IVA? Una cantante, evasori, e va a prendersi la sua Ferrari. La FIFA progetta il pallone intelligente. Per me il pallone intelligente è quello che non si fa prendere a calci. Ecco, questo l'ho fatto un po' contro Prodi, per chi dice che ce l'ho con Berlusconi. Il centro-sinistra festeggia la vittoria del centro-sinistra nelle primarie del centro-sinistra. Non poteva che vincere, ovviamente, il centro-sinistra. Ombelichi, che è la storia degli ombelichi. Non ne posso più dal freddo, fa come me. Nipote o prenipote? Figlio. Gli italiani diventano padri sempre più tardi. Questa è Eva Klotz. Vi piace? E questa è la Biancofiore con il Berlusconi, il famoso gesto di Piazza della Vittoria, no? La Biancofiore mi ha chiesto la vignetta per fare la sua campagna elettorale. Gliel'ho data, però lei poi me l'ha tramutata in qualcosa di tutto suo. Sul medio teso di Berlusconi ci ha messo a sventolare la bandiera di Forza Italia, ricordate i manifesti in giro per Bolzano? E questo è Durnwalder, la provincia che eroga. È ancora Durnwalder che aspetta la sua quarta incoronazione. Qui è l'Alto Adige, meglio il Sud Tirolo, come lo vedono i sudtirolesi, appunto. E a suo tempo sono riusciti a battere Napoleone. Se andate al Museo del Turismo Trautmannsdorf a Merano, c'è una scenetta meravigliosa, animata, in cui si vede Andrea Sofer che combatte contro Napoleone. Sapete chi perde? Napoleone. E vince Andrea Sofer. Non l'avevo mai saputo, pensavo che fosse stato quello di che poi tra pari ce la prenderò tanto con Napoleone, ma erano francesi e bavaresi, loro amici. Ecco, questo è il mio primo lavoro dello scorso anno, e il Tennis Club Bozzano Boce non ha molto a che fare con vignette, però il disegno è mio, ispirato comunque da Leonard, per farvi vedere che so fare anche dell'altro. Questo sempre lo scorso anno, in lingua tedesca, sono vignette apparse sullo Zett, mie vignette, logicamente il supplemento della domenica. Ecco, la didascalia dice le vacanze più comode, più a proprio agio, e sono sempre inevitabilmente quelle che si passano a casa propria, secondo me. Qui torniamo al discorso degli ombelichi. Il mio ombelico è la cosa più bella che io abbia. E lei non rinuncia, anche se la temperatura è fredda. Per fortuna che abbiamo i cannoni da neve. Mi ami? E tu? Questa è l'odierna follia dei telefonini. Lavoro nero. Questo è il 52esimo concorso Busoni, pianisti in gara. Ecco, qua veniamo all'ultima parte di questa serata. Sono alcune delle vignette che vedrete qua nel libro che vi propongo. Bobo Craxi sta col centro-sinistra, Stefania Craxi sta col centro-destra e Bottino, Congresso Socialista. Questo è per la sinistra, che discissione in scissione, il socialismo marcia verso il sol dell'avvenire, è tipico della sinistra. Salutiamo un assessore provinciale della sinistra qui, è venuta la dottoressa Gnecchi, l'ho vista in questo momento, sapeva che c'era una vignetta contro la sinistra, è arrivata, zacchete là per colpire il frangi. Però lei di rimando adesso potrà godersi questa vignetta, uova cotte, per favore, solo cotte, virus dei polli, evitare le uova crude. E naturalmente le prende Berlusconi. Sono solo zucche vuote, di destra o di sinistra, Halloween. 10.000 forestali calabresi scioperano. Se prima non facevano niente, adesso non fanno nientissimo. Non ditemi che sono razzista perché io sono di origine in parte calabrese. Proprio. Parigi è sempre Parigi, questo era il periodo, vi ricordate, della banlieue che bruciava. Non sempre le vignette fanno ridere. Con l'euro pesante la spesa è sempre più leggera. Il lato positivo, basta accontentarsi. Eh beh, questo l'ha fatto dopo che è sceso in campo l'Inter con 11 stranieri. È una squadra di 11 uomini, 11 stranieri. L'unico italiano è un certo Moratti, ho detto io, che poi è il proprietario dell'Inter, no? Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Ah, ecco il Papa che ha sempre da dire la sua. Contro l'AIDS, continenza e fedeltà. E il Negretto va a chiedere pillole di continenza e supposti di fedeltà. Mezzoetto, mezzoetto in più. L'Europa riprende a crescere. Ah, qui quando c'è stato quel piccolo sommovimento al comune di Messina, ha vinto il centro-sinistra, Beddamato il terremoto, anche Messina è passata al centro-sinistra. E qua invece c'è la Cina che sorpassa l'Italia, prodotto interno lordo. L'intruso, tutti sti babbi Natale, che vanno a inquinare il nostro bel presepio, e ci sono Halloween, Babbi Natale, c'è di tutto, c'è di tutto. In questi giorni sto leggendo giornali del 1934, 34. A Natale i bambini a Bolzano ebbero in dono il Natale del Duce, furono distribuiti 2.000 pacchi ai bambini bisognosi ed era il Natale del Duce. Il giornale La Provincia di Bolzano riportava questa notizia scrivendo Duce non con la D maiuscola, ma con la D maiuscola, la U maiuscola, la C maiuscola, la E maiuscola nel corpo dell'articolo. Poi naturalmente c'era anche la Befana, fascista. Non potresti prendere esempio da Pannella? Amnistia, ennesimo sciopero della fame di Pannella. Se hai fame, telefona. Salgono le spese alimentari, calano quelle telefoniche. È venuto a farmi compagnia anche il mio amico Remo Ferretti. Grazie, Remo. A te te lo regalo però il libro, eh. Ah, te l'ho già regalato. Allora risparmio 5 euro. Se hai fame, telefona. Ah, ve l'ho già letto, ero emozionato. Dunque, la Juventus si è venduta a Mediaset 248 milioni di euro. Ah, qua era il compagno Putin lo scorso anno, ve lo ricordate? Quando tratteneva il gas. E noi eravamo al freddo. Beh, questa non me l'hanno pubblicata questa sul giornale. Mi hanno detto no, non è il caso, lascia perdere. Se non ci dai i soldi per il cinema andiamo a bloccare l'autostrada. Questo è un bel vizio italiano, quando l'esempio viene dai grandi. Ormai è di moda l'ultrapiatto. Il governo consiglia di mangiare fagioli. Questo riecheggia un po' Putin. Il gas scarseggia. Che bello quando potremo lamentarci per il grande caldo, il grande freddo. Avete mai fatto caso che importanza che hanno i discorsi sul tempo in ascensore? Quando ci si trova naso a naso con una persona, non si hanno argomenti da uno, due, tre piani. Per fortuna che c'è il tempo. Quando andai una volta in Arabia Saudita, mi ci portò un mio amico che era direttore di un cantiere di un'impresa italiana che costruiva l'autostrada attorno a Jeddah e costruiva anche l'università di Medina. Pensate che siccome gli infedeli non possono entrare nelle città sante, la Mecca e Medina, loro infedeli seguivano i lavori dell'università di Medina dall'esterno della città con un servizio, con un circuito chiuso televisivo. Non potevano mettere piede dentro. Io per andare da Jeddah dal Taif non sono potuto entrare, passare attraverso la Mecca, ma ho dovuto girare con la macchina tutto attorno alle colline della Mecca perché i miei occhi impuri non erano degni di vedere la Mecca. Tra parentesi, la Mecca non ha aeroporto per questo motivo, perché non possono atterrare gli aerei, magari condotti da piloti che sono degli infedeli. Ecco, questa è l'Arabia e l'islamismo, sono cose da matte. Mi diceva questo mio amico, io sono andato, ho fatto dei servizi per GR2 di nascosto, figuravo come impiegato dell'impresa, avevo un piccolissimo registratore e raccoglievo voci qua e là, e mi diceva, la cosa che mi sconvolge la mattina e quando mi alzo, mi diceva lui, è che non mi capita mai di affacciarmi alla finestra per vedere che tempo fa, perché è sempre bello. Vedi, noi abbiamo questo grande vantaggio, il tempo alle volte da noi è anche brutto. All'Italia. Hamas spari di gioia quando Hamas ha vinto le elezioni a Gaza. Me ne frego. Ciampi trova eccessive le presenze di Berlusconi in TV. Ah, questo è Pisanu, dobbiamo eliminare questi sconci. E se eliminassimo il calcio? Ecco, questa sarebbe da riprendere. Prendo la faccia di Pisanu, ci metto quella di Amato e lo posso riciclare tranquillamente questa vignetta. Vi pare? In questi giorni poi. La prostituzione in Italia è esentasse. Perché non proviamo a dire che tu fai la prostituta? Qui ancora all'Italia, Cimoli, all'Italia deve camminare con le sue gambe. Discesa libera, qua siamo alle Olimpiadi di Torino, andati malissimo. Con lo sci tutto è andato bene finché c'ero io. E dicevano che io portavo sfiga, eh? Ho incominciato con Teni, ho concluso con Tomba e dopo di me il diluvio. Prodi, problemi con l'alta velocità, qua siamo in Val di Susa. Aviaria, gli angioletti destano preoccupazione. Teatro, psicosi aviaria, il lago dei cigni, si va a disinfettare il balletto. Ah, ecco qua c'è Gheddafi, petrolio, petrolio. È colpa mia che ho detto no al nucleare, c'era già in precedenza un qualcosa di analogo. Non si potrebbe dialogare, questi siamo sempre noi con la nostra buona volontà, no? Aviaria ancora. Ve la voglio far vedere perché avete riso. Toh, ecco. Ah, ridete ancora? Bravi, grazie, lo dirò a mia moglie stasera. L'allenamento, il pattinaggio artistico ha registrato in TV indici d'ascolto molto elevati. Subito il nostro Silvio ci si butta. Ecco qua Gheddafi, dovete risarcirci ancora per le malefatte di Scipione l'Africano. Ultime note da Sanremo. Avete letto i giornali? Sembra che 3 italiani su 10 consumino coca. Io non so dove, come, quando. È una cosa che veramente mi meraviglia. L'altro giorno, anzi ieri, ero proprio a casa di Remo, eravamo là 8 o 10, quanti eravamo? Secondo le statistiche 3 di noi sniffano coca. Invece non mi risulta, no? Io perlomeno no. E questo è il conto mio per quello che vi ho lasciato, ospedali, strade, scuole, strutture, fattorie e via dicendo in temi di risarcimento. Rai, una prossima trasmissione di successo. Vi ricordate il confronto Berlusconi-Prodi con indice d'ascolto di una audience altissima? Ecco, i due si divertono, Berlusconi si è messo i tacchetti. Il ministro della Sanità Francesco Storace ausculta Alessandra Mussolini. Era il momento delle intercettazioni telefoniche. Pare che Storace auscultasse la Mussolini. Ora che ho sentito Berlusconi e Prodi, posso dire finalmente di avere le idee confuse. Ecco, 16 milioni di telespettatori per Berlusconi e Prodi, ma uno ha dormito. Questo mi piace. Berlusconi dice che noi in Cina bolliamo i bambini. Dite a Berlusconi che gli bolle il cervello. L'ennesima gaffa, ve la ricordate? Lei mente, messere, nel confronto, eh? Ah, qui era la famosa parolaccia. Quando Berlusconi ha detto che metà degli italiani che non votano per lui sono coglioni, no? L'ho imparata da Berlusconi. Simili Italia entrambi, sono comunisti. L'Italia è un grande paese, leggete avanti voi. E adesso ce la prendiamo con Prodi, che ha vinto le famose elezioni e adesso gli tocca governare. In questi giorni se ne sta accorgendo anche lui. Il balletto dei risultati, che non si capiva niente, rifare, non rifare. Giovanottola, facciamo una grande coalizione. Era la prima proposta di Berlusconi. L'hai voluta la bicicletta? Pedala. E finalmente non politica. Dallo spazio la sonda europea invia le prime immagini ravvicinate di Venere. Quella a destra avrebbe potuto essere col senno di poi Margherita Hack, invece non ci ho pensato lì per lì. Elezioni, il ricalcolo. Sapete che nel 72, quando sono andato per la prima volta in Giappone per le Olimpiadi di Sapporo, le commesse facevano ancora i conti col pallottoliere e con una rapidità incredibile, incredibile. Facevano concorrenza al computer, esatto, esatto. Io mi meravigliavo e loro ridevano a vederci con gli occhi straniti. La sentenza. Proclamiamo la vittoria dell'Unione e condanniamo Berlusconi a 5 anni di pranzi e cene a base di mortadella. Ho perso quella di prima, che forse era buona. L'Unione fa lo sforzo. Bertinotti, in palestra per il nuovo governo. Questa è... I tempi di una volta, prima dell'onorevole Merlin, Giovanotti in camera e oggi Bertinotti in camera. Andreotti, il nuovo che avanza. Questa l'ho disegnata prima del famoso episodio. Dopo le elezioni ho fatto questa vignetta, novità in Parlamento, no? E poi in effetti è uscito il problema, è uscito lo scandalo. E sono stato in questo caso veramente un precursore. Proponiamo Napolitano, urca un terun. Il campionato più bello del mondo, li vedete? I Juventini, gli Juventini, ammanettati, l'arbitro con la palla al piede. Questa non mi andava giù, non fa tanto da ridere, fa pensare. ONU, Cuba e Cina nella Commissione per i diritti umani. Questa proprio è una cosa che non mi va giù. Napoli, mentre la delinquenza imperversa, i magistrati si dedicano al calcio. Al calcio perché avevano aperto calciopoli, vi ricordate, no? Si sono subito buttati sul pallone. Correre dietro ai delinquenti è evidentemente pericoloso e non dà gloria. E correre dietro al pallone invece vuol dire figurare nelle interviste televisive. Perché non hanno lasciato fuori il cardinale Ruini? Hanno lasciato fuori, varato il nuovo governo. Il pallone nel fango. Prodi supera il primo ostacolo, ma c'è il secondo che l'attende. Ancora Prodi con le audaci riforme. Cominciamo con l'abbassare il prezzo della mortadella, la lotta al caro vita. Meglio ricordarcela così. Marilyn Monroe avrebbe compiuto oggi, il 1 giugno del 2006, 80 anni. È morta giovane e ce le ricordiamo così. Meglio, no? A conti fatti. E io quello a destra, sì, sono io quello a destra, me la ricordo così. 2 giugno, parata militare al risparmio. Iniziano i mondiali e in Germania aprono i bordelli. Iniziano i mondiali e il calcio italiano è un bordello. Il governo taglierà le auto blu. Quote azzurre, questi sono i maschietti che protestano, no? Tutte le donne protestano per via delle quote rosa, vogliono essere presenti. E questo si è detto, ma perché anche io non posso godere di quote azzurre sul palcoscenico? E perché in un'isola deserta fino al 9 luglio, così ci evitiamo i mondiali di calcio. Buone notizie, sterilizzeranno l'IVA sulla benzina. E lei con 4 figli è incinta. E te quando? Abbiamo quasi finito. Al governo Prodi sono in 102. Noi eravamo solo in 101. Romano Prodi batte Walt Disney. Mondiali di calcio. Si è sbagliato Prodi qua, eh? Potremmo installarmi un clacson più rumoroso, mondiali di calcio. Mondiali di calcio ancora. Il 70% degli italiani ha visto Italia-Ghana. Le uscite di Bossi, stavamo meglio sotto l'Austria. Questo è lo scandalo della Rai, ve lo ricordate, no? Quando è venuto fuori che si deve passare attraverso camere da letto e materassi e divani per poter accedere. Gli uomini sono tutti guardoni e sporcaccioni. Questo è un risvolto delle donne che non mi piace molto. Quando loro si mettono in vista, prepotentemente e sfacciatamente, poi dicono che gli uomini sono sporcaccioni perché magari la guardano. Io, beh, mi pare che non ci sia nient'altro. Ci abbiamo chiuso? Guardiamo. Prima ancora? No, no, no, vi ringrazio. C'è il mio prossimo libro, Una mela al giorno, Togli il medico di torno. Uscirà tra qualche mese, aforismi del professor Giorgio Dobrilla, vignette di Ettore Frangipane. Vi convoco qua sentiremo la dottoressa Trevisan quando uscirà il libro. Allora, questa volta è veramente finito. Vi ringrazio, dell'attenzione e della partecipazione.